Per la regione Campania si tratta di una vera e propria rivoluzione. La riforma del personale dovrebbe essere pronta infatti a giorni, potrebbe addirittura precedere la normativa sul decentramento amministrativo. Ci sta lavorando l'assessore regionale al personale, Pasquale Sommese. Il progetto prevede innanzitutto l'istituzione del funzionario quadro, un ruolo vice dirigenziale che rappresenta un riconoscimento per le professionalità di lungo corso, dovrà svolgere una funzione di coordinamento tra i vari livelli del personale interno alla regione Campania. Ma soprattutto c'è il dimezzamento dell'organico attuale, il 50% dei dipendenti regionali verrà distaccato in altri enti. Una soluzione necessaria per evitare che gli stipendi vengano tagliati. L'assessore al personale ne è fermamente convinto. E non possiamo assolutamente immaginare in questa fase che, oltre all'aggravio di lavoro che graverà sui nostri dipendenti, immaginiamo anche di tagliare stipendi o premi di produttività. È una cosa ingiusta, una cosa che noi stiamo lavorando per scongiurare. Mi auguro che tutto questo lo si riesce a fare, ma il mio impegno è profondo e solidale verso i dipendenti della Regione Campania. Il decentramento ci dobbiamo portare in linea con le altre regioni. Quando noi leggiamo che la Lombardia ha 3.700 dipendenti con una popolazione molto superiore a quella della Campania, è perché la Regione Campania ha provveduto già da anni a decentrare funzioni e personale e risorse, a esternalizzare una serie di servizi e a consentire una serie anche di dipendenti delle regioni che vivono le loro esperienze all'interno delle agenzie, delle partecipate, del territorio. È una rivoluzione. Io immagino le vecchie comunità montane che non possono più esistere così come hanno lavorato in questi anni, ma vanno riorganizzate con competenze che non si duplicano tra ente parche, comunità montane, comuni, enti di consorzi di bonifica. Insomma, è veramente una duplicazione che non aiuta gli investimenti, non aiuta i cittadini, li rende schiavi delle procedure, della burocrazia. Ovviamente la polemica con l'opposizione è dietro la porta. Il centro-sinistra critica l'assessore Sommese e il presidente Caldoro, accusandoli di fare soltanto degli annunci ma non provvedimenti concreti. E quanto sostiene in particolare il consigliere regionale di minoranza Nicola Marrazzo. Io credo che l'assessore Sommese, così come la giunta Caldoro, brangoli nel buio, perché noi assistiamo continuamente a degli annunci. Un giorno ci viene detto che tutti i comandati che dalla regione Campania stanno presso le altre amministrazioni devono ritornare indietro. Il giorno dopo ci viene detto che sarà tagliato il 20% dello stipendio, un altro giorno ancora, sempre attraverso interviste, ci viene detto che saranno decentrate le funzioni e quindi anche il personale. Noi aspettiamo che in Consiglio arrivi almeno una proposta da parte del governo Caldoro e da parte dell'assessore Sommese, in modo che cominciamo a parlare non attraverso le interviste ma attraverso degli atti, atti che devono essere esaminati ed approvati dal Consiglio. Allo stato attuale esiste solo un disegno di legge presentato alle forze di minoranza. Altro dalla giunta Caldoro non è arrivato. L'altra grande novità del documento al quale lavorano sia Sommese che il presidente della giunta regionale Stefano Caldoro è rappresentata dall'eliminazione di 120 strutture interne tra settori e servizi. Tutti gli uffici che risultano essere poco produttivi in un rapporto tra la qualità del lavoro prodotto e i costi per il loro mantenimento verranno soppressi. Gli accorpamenti saranno pochi e verranno effettuati soltanto laddove è necessario. La nuova struttura degli uffici della Regione Campania resterà piramidale, al vertice il capo di gabinetto, poi quattro grandi macro aree dalle quali dipenderanno 12 dipartimenti. Dunque si tratta di una riorganizzazione complessiva a 360 gradi che l'assessore Sommese ha inserito come primo punto della propria pianificazione. L'obiettivo era quello di procedere ad una riorganizzazione, ottimizzazione delle risorse interne e soprattutto una nuova rimodulazione dell'idea dell'azienda regione, individuando non più le vecchie aree di riferimento, ma individuando veri e propri direttori generali, dipartimenti, quindi una prima rivoluzione sull'idea piramidale di una regione organizzata in modo snello. E l'abbiamo realizzato con la legge regionale dopo 30 anni. Italia in Controluce termina qui, vi ricordo la nostra voce, i nostri servizi, li potete riascoltare tutti su www.radio24.it, scaricarveli anche in podcast, oppure se volete parlare con noi, comunicare con noi, vi potete iscrivere innanzitutto al nostro gruppo Radio 24 Italia in Controluce, gruppo su Facebook, oppure inviarci mail a controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.